9. Ascolta ancora e scrivi le informazioni. Oggi esce il romanzo di Fabio. Il libro parla di un lungo viaggio attraverso i 5 continenti. Durante il viaggio, i 3 personaggi scoprono metropoli e piccoli paesi. In ogni luogo fanno amicizia con altri viaggiatori. Scoprono tradizioni sconosciute, imparano alcune parole straniere e soprattutto scrivono un diario delle loro avventure. Alla fine del viaggio, i personaggi desiderano raccontare a tutti le loro storie e decidono di creare una mappa dove per ogni luogo è possibile leggere un racconto. Questa mappa, queste storie, incuriosiscono altri viaggiatori che scelgono di fare lo stesso percorso e qualche volta aggiungono storie al racconto dei 3 viaggiatori.